Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che oggi ha un'apertura ancora più economica del solito, nel senso che ci sono le nuove previsioni per il prodotto interno lordo del nostro paese, che è l'indice che si usa quasi ormai da moltissimo tempo per misurare la cosiddetta ricchezza prodotta da un paese. Le nuove previsioni, sappiamo, la pandemia ha abbassato le previsioni di tutti i paesi, con crolli più o meno marcati. In Italia siamo a una previsione del -10%, che varrà 410.000 posti in meno. Il presidente di Confindustria Bonomi, che lo ricordo ma credo lo sappiate tutti voi ascoltatori, è il presidente di Confindustria e Confindustria controlla questo gruppo editoriale che naturalmente oltre al quotidiano comprende Radio 24 e Radiocor, e il suo mantra è investire per crescere, e questo è il titolo del Sole 24 Ore. Centro Studi di Confindustria fa questa previsione del -10% e il ministro dell'economia Gualtieri ha risposto che le proposte del suo ministero sono in sintonia con quelle del Centro di Studi di Confindustria o viceversa, e secondo questo rapporto appunto del Centro Studi di Confindustria, che ha analizzato tutti i decreti anticrisi che sono stati varati dall'inizio della pandemia, e quella che può essere definita la dote, perché comunque è la dote, l'eredità di questi decreti anticrisi, è che la spesa sarà al 95% al 95% entro il 2020. Da Industria 4.0, che è tutto quel sistema di super ammortamenti per modernizzare le strutture produttive, il rapporto di Centro Studi Confindustria ribadisce, era un lavoro di qualità e quella serie di provvedimenti va rilanciata. Poi sul tema della produttività, sempre questo rapporto del Centro Studi Confindustria sottolinea, non nega assolutamente che sia un problema, ma è un problema soprattutto nella pubblica amministrazione. Trovate tutto poi alle pagine 2 e 3 con gli approfondimenti, da una parte appunto l'opinione del ministro dell'economia Gualtieri, il rilancio dagli investimenti, il 2020 secondo Gualtieri può fare meglio di -9%, quindi un pochino meglio già della previsione di Confindustria, e poi comunque Gualtieri dice potrebbe anche essere, il calo potrebbe essere minore del 9%, e invece a pagina 3 appunto Nicoletta Picchio racconta nel dettaglio questo rapporto: PIL pro capite indietro di 26 anni, Italia al bivio tra ripresa e declino. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche una bellissima inchiesta di Michele Romano, che poi troviamo a pagina 8, con questo progetto della ferrovia spostata all'interno del nostro paese, la cosiddetta dorsale adriatica, un piano per da una parte i binari sui quali corre l'alta velocità e dall'altra anche spazio per le biciclette. Quello che poteva sembrare una suggestione, arretrare la linea ferroviaria adriatica e renderla idonea all'alta velocità, è diventata una strategia del governo, rilanciata nei giorni scorsi dal ministro per la cultura e il turismo Dario Franceschini durante questo evento Made in Italy The Restart, che c'è stato un evento digitale organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times da martedì 6 a giovedì 8. L'obiettivo è accelerare il collegamento lungo la dorsale adriatica e creare sulla vecchia sede ferroviaria piste ciclabili e spazi utili per la vivibilità ambientale e turistica della riviera. La prima pagina del Corriere della Sera è, come la maggior parte degli altri quotidiani, si concentra sui provvedimenti in vista o comunque quelli già annunciati e quasi sicuri per arginare questo aumento per ora dei contagi, più che per ora dell'aumento delle terapie intensive e dei decessi, che restano stabili, ma i contagi sì, crescono. sappiamo che il problema di una pandemia di questo tipo è proprio che è molto facile accelerare i contagi, perché questo Covid-19, questa malattia del Covid-19 e il coronavirus che la causa è appunto ha tra le sue caratteristiche quella di essere molto contagiosa. L'apertura però, diciamo, perché poi occupa le pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, è un'intervista del direttore del Corriere Luciano Fontana e di Federico Fubini al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e il titolo di questa intervista è: bene la risposta data fin qui alla crisi, ora cambiare passo. E il commento è affidato a Ferruccio De Bortoli, che del Corriere della Sera è stato due volte direttore, oltre che in passato anche direttore del Sole 24 Ore. Il commento si intitola Il doppio analgesico. Vi leggo le prime righe. Viviamo sotto l'effetto di un doppio analgesico. Analgesici sono quei farmaci, una classe di farmaci che allevia il dolore. Ma non ce ne accorgiamo o facciamo finta di niente. Comprensibile di fronte all'insorgenza autunnale del virus. Il debito pubblico crescerà a fine 2020 di quasi 200 miliardi. Era in parte inevitabile, sono cifre che rimuoviamo nella normalità, figuriamoci ora. Anche se la BCE e la Banca d'Italia ne possiederanno di questo debito a fine 2021 circa un terzo. E il BTP decennale è sceso questa settimana allo 0,72%. Mai indebitarsi è costato così poco. Quindi, primo antidolorifico, il debito pubblico. Il secondo antidolorifico è per molti una sorta di vaccino necessario per curare i mali dell'economia, nella pericolosa convinzione che lo Stato possa fare tutto, senza limiti, sussidiare, integrare, proteggere. È quello, per tornare al presidente della Confindustria Carlo Bonomi, che è stato definito appunto il pericolo di diventare un sussidistan. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, appunto, il titolo sui contagi, verso lo stop a feste e calcetto, sono misure allo studio, e poi la foto di Carlo Acutis, che è morto a 15 anni per una leucemia fulminante nel 2006 e ieri è stato proclamato beato. La Repubblica, titolo molto simile a quello del Corriere, virus la stretta del governo, e in questo caso la foto è quella di Pierluigi Marcalli, che ieri è tornato, il padre Pierluigi Marcalli, liberato dalla sua prigionia in Africa. I jihadisti mi volevano far convertire, questo è il titolo dell'incontro che hanno avuto Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, che trovate a pagina 15, il racconto della prigionia di padre Marcalli, che ieri appunto è tornato nel suo paese in provincia di Crema, pregavo di nascosto. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, in copertina un disegno di Mauro Biani, e il titolo è Siamo d'accordo, non esiste più la destra e la sinistra, quindi io vado di qua e io di là. E il tema è appunto questo del, se ne è parlato molto quando si è affermato il Movimento 5 Stelle, che si dichiarava ancora adesso in parte, si dichiarava né di destra né di sinistra. E però, per esempio, qui lo spunto è lo scontro in atto, la campagna elettorale negli Stati Uniti che porterà alle elezioni del 3 di novembre. Negli Stati Uniti la corsa fra Trump e Biden diventa uno scontro di valori. In Italia i 5 Stelle implodono nelle loro contraddizioni. Chi diceva che le categorie della politica erano superate ora se le ritrova davanti come a un bivio. Questo è sicuramente un tema sul quale riflettere. La Stampa, titolo simile a quello di Corriere e Repubblica, feste e movida, nuovo giro di vite. La foto è quella di Donald Trump, l'avete sentito nel GR. Ieri ha fatto un'apparizione pubblica da quel balcone Truman della Casa Bianca, dal quale si era affacciato anche appena dimesso e tornato alla Casa Bianca dall'ospedale Walter Reed. Circa 2000 le persone presenti, apparentemente distanziate, non distanziatissime, quasi tutti con la mascherina. E in questo primo discorso dopo la malattia si è tolto la mascherina Donald Trump e ha detto: sto bene, votatemi, batterò i comunisti. L'editoriale della Stampa e del suo direttore Massimo Giannini, che è positivo al Covid, e non è soltanto positivo, ha anche dei sintomi, e quindi scrive: da malato vedo i ritardi della politica. Vi leggo le prime righe. Forse è il caso di mettere da parte la narrazione ottimistica e vagamente patriottica di queste ultime settimane. abbiamo incassato elogi e complimenti da tutto il mondo, il New York Times, l'OMS, Financial Times e l'Agenzia per il Farmaco. Lodi sperticate e giustificate al modello Italia, un paese resiliente con un governo responsabile nella gestione sanitaria della pandemia e un popolo inappuntabile nell'accettazione sociale delle restrizioni. Bene, grazie a tutti. Fa piacere constatare che ogni tanto un riscatto reputazionale è possibile, anche per una nazione troppo spesso svillaneggiata dal luogo comunismo altrui. Ma adesso, per favore, lasciamo perdere lo storytelling e guardiamo in faccia la realtà. La realtà, purtroppo, dice che la seconda ondata del virus è arrivata e noi stavolta non siamo pronti ad affrontarla. E vedremo anche su altri giornali, per esempio, il tema dei tamponi e delle code che ci sono in alcune regioni per farli, del fatto che in alcune regioni si possono fare a pagamento, in altre no, e soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, che ieri è tornata a essere la regione con più contagiati. In Lombardia abbiamo la vicenda scandalosa in tutti i sensi, come vedremo dal Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale che apre su questo, dei vaccini che mancano. Perché a proposito di quello che dice Giannini, del fatto che non siamo preparati, ricorderete tutti che ormai dal picco della pandemia e anche del lockdown, quindi aprile e poi inizio maggio, che ci sentiamo ripetere dai virologi quasi unanimemente quanto sarebbe stato importante il vaccino antinfluenzale in questo autunno che stavamo per affrontare, perché con il vaccino, per due motivi, lo ricordo a tutti: primo, perché come ogni vaccino stimola le difese immunitarie che ci servono anche contro il coronavirus; secondo, perché prendendo il vaccino ed evitando di avere i sintomi dell'influenza, quando chi avesse dei sintomi e abbia fatto il vaccino può essere subito messo sotto controllo, perché possono essere sintomi del Covid. Ebbene, in questo autunno del 2020 il vaccino era consigliato a tutti e non solo alle categorie a rischio come negli anni passati, quindi stiamo parlando di aprile-maggio, c'è stato tutto il tempo perché questa è materia regionale, quella degli approvvigionamenti, per esempio, dei vaccini e dei tamponi. Ci sarebbe stato tutto il tempo per procurarsi il giusto numero di dosi in Lombardia, e ripeto, a parte il fatto di vivere in Lombardia, quindi è una cosa che ovviamente mi riguarda direttamente, la Lombardia non è pronta, ma lo vedremo appunto come apertura del Fatto Quotidiano. Vi segnalo l'apertura del Messaggero invece, che comunque è simile a quella degli altri quotidiani che abbiamo citato fino adesso. Locali, scuole, sport, lavoro, prime prove di lockdown. La foto però è dedicata alle nozze di Adriano Panatta e Anna Bonavigo. Si sono sposati ieri a Venezia a celebrare Carlo Nordio, quindi un matrimonio civile, e essendo appunto Adriano Panatta, a parte l'ex campione di tennis più famoso d'Italia, è anche romano, e quindi il Messaggero appunto mette questa foto in prima pagina. In prima pagina anche un approfondimento che poi trovate a pagina 9 di Rosario Di Mito sulla nuova, ennesima nuova Alitalia. Alitalia riparte da Stati Uniti e Giappone, nuove rotte e costi ridotti. L'azienda prova il rilancio. Avvenire, come potete immaginare, la foto è dedicata alla cerimonia di beatificazione che si è svolta ad Assisi di questo ragazzo che si chiamava Carlo Acutis, un modello per i giovani di Facebook, perché appunto è morto giovanissimo, ma è morto che comunque era già iniziata l'era digitale e dei social, e appunto usava, una delle cose che è stata ricordata è che usava Facebook per dare messaggi positivi soprattutto per quanto riguardava la sua fede. Il titolo comunque principale, simile a quello di tutti gli altri quotidiani, verso una stretta. Allo studio ulteriori misure per frenare l'aumento dei contagi, sempre in salita, ipotesi di chiusura dei locali, adesso si parla delle 24, cerimonie ridotte e divieto di feste private. Ultimo titolo, prima di lasciarci un attimo per una pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, quello del giorno: scatta il coprifuoco sulla Movida. E poi due foto sotto il titolo La meglio gioventù, da una parte Carlo Acutis e dall'altro Giulio De Angeli, che ha 25 anni, ha già 3 lauree e studia come battere la sclerosi laterale amiotrofica. Ma ci lasciamo un attimo, come vi dicevo, ci troviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancano ancora alcuni titoli delle prime pagine. Il giornale: virus, attacco alla famiglia. Perché questo titolo? Perché da una parte dai dati si evince che il 77% dei contagi viene fatto tra parenti e ora il governo vuole entrarci in casa. Il Domani, il quotidiano, il nuovo quotidiano, il primo numero uscito il 14 di settembre, ha sempre sostanzialmente, per chi non ha mai visto la prima pagina, poi ha un sito aggiornato costantemente, ma sulla prima pagina ci sono sempre due articoli. Allora, da una parte oggi c'è l'editoriale del direttore di Domani, Stefano Feltri, meglio altri lockdown che la diffusione del contagio. E poi un approfondimento invece sul tema dei tamponi: ore di attesa per niente, troppi tamponi, poca assistenza, così il sistema sta collassando. E all'ascoltatore che, ricollegandosi a quello che ho detto sull'emergenza vaccini in Lombardia, dice: perché in Campania e Lazio non è emergenza? Certo che è emergenza anche lì, forse insomma ha radici diverse. Per quanto riguarda la Campania, c'è il tema che conosciamo tutti molto bene, di un sistema sanitario che, a parte alcune eccellenze, è sicuramente molto diverso da quello lombardo, che invece per molte ragioni, per molti aspetti, è sicuramente all'avanguardia. Per esempio, in questo articolo di Domani, a proposito di quello che mi segnala l'ascoltatore, si dice: molte regioni non riescono più a contenere o gestire la situazione. Lazio e Campania, che si sono risparmiate la prima ondata, ora hanno perso il controllo del tracciamento e hanno gli ospedali Covid pieni, ma la Lombardia non sta molto meglio. E questo appunto un po' il tema di queste tre grandi regioni, che sono grandi in termini di chilometri, in termini di popolazione, e poi anche in questo momento sono quelle che hanno più contagi. E a proposito però dell'editoriale di Feltri, segnalo che poi, perché il titolo appunto meglio altri lockdown che la diffusione del contagio, sapete che la paura di un secondo lockdown è soprattutto per gli effetti economici e sociali, e infatti a pagina 3 il Domani ha un articolo di Vanessa Ricciardi dove si spiega: lo spettacolo è finito, senza eventi il settore sta morendo. E si fa riferimento anche a una protesta che c'è stata ieri a Milano. Oltre 1000 tra addetti di scena, tecnici e produttori di eventi dal vivo hanno manifestato a Milano in silenzio. Da marzo il 95% degli eventi è stato cancellato. La Verità: con pieni poteri ma buoni a nulla. Il riferimento è al nuovo DPCM a nuovi possibili DPCM e soprattutto alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio del prossimo anno. Sarebbe scaduto il 15 ottobre l'ultima proclamazione dello stato di emergenza, che sappiamo non dà poteri di coordinamento allo stato centrale, sulle regioni, e soprattutto permette per esempio una corsia accelerata per quanto riguarda l'assegnazione degli appalti. La Verità ritorna anche sul caso Palamara, che sapete 2 giorni fa è stato ormai possiamo chiamarlo ex magistrato, perché è stato radiato dalla magistratura, anche se ha annunciato vari ricorsi in Cassazione, persino alla Corte dei diritti umani europea. E Giacomo Amadori, tornando su questa inchiesta su Palamara: manca il mandante del siluro a Palamara, tutto nasce dalla fuga di notizie sulla guerra per la procura di Roma, e ora ci saranno, si chiede Amadori e La Verità, ci saranno altre indagini. Libero: altro che Lombardia, al sud è infettato, il Covid dilaga nel mezzogiorno, sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt, il ministero ammette, rischiamo nuove stragi come a Bergamo. Ed ecco il Fatto Quotidiano: alta i vaccini cinesi strapagati da Gallera. Per chi ha seguito la vicenda, ci sono stati sostanzialmente 2 intoppi. Da una parte all'inizio la gara di appalto, perché comunque ovviamente la regione non produce da sola i vaccini, deve fare degli appalti, e poi sono le case farmaceutiche che fanno l'offerta. Una prima offerta era stata rifiutata, poi si era trovato un'altra azienda che li producesse a 5 volte il prezzo iniziale, cioè circa 25 euro al posto di 4,90. Poi è arrivata un'azienda cinese, ma questa azienda cinese che li avrebbe venduti a circa il doppio del prezzo iniziale, cioè circa un pochino più di 11 euro. Adesso questi 100.000 vaccini sono stati bocciati perché non hanno l'autorizzazione dell'agenzia per il farmaco. Alta i vaccini cinesi strapagati da Gallera. Lombardia flop è la maglia nera per i contagi e pure per gli anti-influenzali. Li paga il quintuplo e l'AIFA boccia i 100.000 acquistati dalla Cina. E l'inchiesta poi la trovate a pagina 4 e 5. Il manifesto, la Covida, al posto naturalmente di Movida, Conte riunisce i capi delegazione sul tavolo la stretta per evitare nuovi lockdown. Tra le ipotesi, abbiamo visto anche sugli altri giornali, serrande abbassate alle 24 per i locali, divieto di sosta davanti a bar e ristoranti dopo le 21, ricevimenti a numero chiuso. Oggi Speranza incontra il comitato tecnico scientifico e domani, quindi lunedì, si decide. Ma torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne in questo caso. Vi segnalo, a proposito di Covid, un articolo di Marco Ludovico: tra mafie e frodi sui fondi anti-Covid, già 3.000 indagini. E visto che stiamo mettendo a punto questo recovery plan, che dovrebbe portare all'arrivo delle famosi 200 e passa miliardi del recovery fund, lo ricordiamo sempre, se va bene, cioè se tutto va bene, perché in questo momento le negoziazioni diventano sempre più difficili a livello europeo, ma se tutto va bene questi soldi del recovery fund arriveranno alla fine del primo semestre del 2021, verso il recovery plan. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e procure affilano le armi investigative e intensificano i controlli con le banche dati in vista dell'assalto della criminalità ai fondi dell'Unione Europea. Poi vi dicevo, questo bel tema della dorsale adriatica sarebbe un'infrastruttura che aiuterebbe non soltanto chi vive in Italia ma anche il turismo. Dorsale adriatica, il progetto che unisce TAV e bici. Trovate appunto i due approfondimenti di Michele Romano, che ha anche intervistato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi. La consueta pagina di Sport e Business. Marcello Frisone racconta: calcio dell'Unione Europea salvo per ora grazie a sponsor e diritti TV. Sui titoli impattano, i titoli naturalmente delle aziende, delle società quotate, impattano negativamente incertezze delle regole, rendimenti inferiori al passato, chiusura degli stadi, costi aggiuntivi legati al Covid-19 e difficoltà nel calcio mercato a monetizzare una parte rilevante della rosa. La prima pagina della sezione Lifestyle che ogni domenica trovate sul Sole, un lungo approfondimento di Lucilla Incorvati sul tartufo. Tartufo ben ritrovato, infatti partono le grandi fiere da Alba ad Acqualagna, da San Miniato a Ceppaloni, alla scoperta dei borghi dove la ricerca del tuber magnatum, questo è il nome scientifico del tartufo, è un patrimonio culturale che rivive da secoli. La seconda pagina della sezione Lifestyle invece dedicata all'arredamento e in particolare ai tessuti d'arredamento, intrecci di materiali pregiati per i tessuti dei designer. Antonella Galli racconta tutto a pagina 15. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento di Luigi Offeddu su quello che sta succedendo in Olanda. Sapete che l'Olanda è annoverata tra i cosiddetti paesi frugali, cioè quelli che hanno conti pubblici in ordine e quindi si oppongono da sempre alle misure che loro considerano troppo generose verso i paesi che invece hanno un debito pubblico altissimo, tra i quali naturalmente l'Italia. Il frugale Mark Rutte, che è il premier olandese, taglia i fondi anche al re. L'appannaggio della famiglia reale sarà rivisto. Il re riceve ogni anno il 5% in più. Nel 2021 arriverà a 1 milione, che è stato definito dal premier Mark Rutte ingiustificabile. Le interviste della domenica questa settimana è Roberta Scorranese, ha intervistato Carolina Morace, che è stata la prima donna nella Hall of Fame del calcio italiano, ex calciatrice, e racconta tra le altre cose in questa intervista: amo Nicola è una Nicola Jane Williams, la sua la sua moglie americana, amo Nicole, una donna, e l'ho sposata due volte. Nel calcio troppa omofobia. Si torna appunto al tema dell'omofobia, anche perché ricordiamo è sempre in discussione, ferma la Camera, la legge contro l'odio verso tutte le persone della comunità LGBT. Un approfondimento su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma qui è per forza di cose una fotografia che è già vecchia nel momento in cui viene fatta per via del fuso orario, vedremo cosa succederà oggi. Comunque Anna Lombardi inviata a New York, il balcone del Trump Show dalle pagine di Repubblica, l'America sta meglio come me. E nella pagina accanto, pagina 13, vi segnalo una bella storia raccontata da Daniele Mastrogiacomo di Felipe Neto, 31 anni, star del web brasiliano, ha 40 milioni di follower su YouTube e 11 milioni su Twitter, e dice: sfido Bolsonaro, in Brasile ormai è dittatura. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, in particolare WhatsApp al 349-238-6666. E a proposito di questa autonomia regionale sulla sanità e appunto le differenze, un ascoltatore segnala, veneto, che dice: settimana prossima abbiamo appuntamento dal nostro medico di base, visto che appunto questa è la testimonianza diretta di un veneto, io vi do la mia testimonianza diretta di Lombarda. Qui in Lombardia i miei genitori, che sono over 80, quindi sono naturalmente sono quella categoria, a parte l'avrebbero fatto comunque, l'hanno fatto l'anno scorso, ma quest'anno in particolare, e invece a loro è stato annunciato dal loro medico di base che forse i vaccini arriveranno il 9 e il 10 di novembre, quindi tra un mese. Dalle pagine di Repubblica vi segnalo anche la consueta inchiesta long form della domenica, e oggi è dedicata alle morti sul lavoro, perché tra l'altro oggi è anche la 60ª giornata nazionale per le vittime i morti sul lavoro. Inchiesta sulla più silenziosa delle stragi, perché in Italia ogni giorno 3 lavoratori perdono la vita nell'indifferenza di tutti. E a proposito di effetti collaterali naturalmente molto negativi del Covid, da Avvenire: usura, le famiglie in trappola, ci sono 6 milioni di nuclei familiari in sofferenza, occorre una presa di coscienza collettiva. Gualzetti, che Luciano Gualzetti, ha eletto nuovo presidente della Consulta della CEI, sono cambiati i bisogni e la povertà si è moltiplicata. Poi un approfondimento ve lo segnalo da Avvenire, ma c'è su tutti i giornali, su questa decisione. Abbiamo citato l'AIFA per la questione dei vaccini non autorizzati prodotti dalla ditta cinese per la Lombardia. L'AIFA ieri ha anche eliminato l'obbligo di prescrizione medica per la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo. Al suo posto un foglio in farmacia per promuovere una contraccezione efficace. Sul tema degli esteri, sempre da Avvenire, una pagina in cui da una parte c'è un aggiornamento su quello che sta succedendo in Caucaso. Putin cala la tregua sul Caucaso, ma è una tregua che non ha retto. Azeri e armeni si sparano. E poi un appello del Papa per la giornata per l'abolizione della pena di morte, che esiste ancora in molti paesi. Basta esecuzioni, il mondo si unisca. E poi un'altra storia dell'orrore, questa volta dall'India, la racconta Stefano Vecchio nella stessa pagina di Avvenire, la 21. Era stata stuprata questa ragazza di 16 anni e il padre l'ha decapitata. Sulla questione del Caucaso anche un aggiornamento di Gian Micalessina, pagina 13 del giornale: Nagorno-Karabakh, la tregua non regge, gli azeri attaccano l'Armenia. E poi prima di passare ai supplementi della domenica, la pagina Un animale per amico che c'è sul giornale, questa una notizia, una buona e una cattiva. O meglio, se vogliamo, comunque tutte e due buone. Una riguarda il pericolo costante che c'è di estinzione di alcune specie per naturalmente il comportamento della specie più pericolosa che c'è su questo pianeta, che è l'Homo sapiens, siamo noi. La notizia viene dalla Tasmania: estinti da 3.000 anni, per la prima volta in Australia tornano i diavoli della Tasmania. E poi l'osservatorio COP 2020, che rivela, dopo il lockdown aumentano le adozioni. Dalla fine dell'emergenza quasi 8 milioni di persone pensano di convivere con un pet. Tra l'altro sapete che in Italia, dall'ultimo rapporto a Salco, è risultato che noi siamo circa 60 milioni, ma i pet sono gli animali da compagnia sono leggermente più delle persone che appunto vivono in Italia. Ma dicevamo i supplementi della domenica, e torniamo sul Sole 24 Ore con il domenicale. Iniziamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Fiore ed è una citazione di Catullo. E la citazione è questa: il mio amore è caduto per colpa sua, come un fiore ai margini del prato che l'aratro ha reciso passando oltre indifferente. E scrive Gianfranco Ravasi: un alone leggendario avvolge l'amore del poeta veronese Catullo, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, per la sua lesbia, pseudonimo di Clodia, moglie di un politico, bellissima, colta, ma corrotta e avida, tanto da essere sospettata dell'avvelenamento del marito. Il poeta, Catullo, perdutamente innamorato, è consapevole della freddezza calcolatrice di questa donna e nei versi che abbiamo citato rappresenta il suo amore tradito e umiliato con un'immagine potente eppure delicata. L'aratro passa sul terreno e apre solchi scardinando il manto erboso e trascinando impietosamente anche il fiore con la sua mirabile corolla. Molti riconosceranno in questa parabola una loro storia d'amore col suo corteo di lacrime e di ferite sanguinanti nell'anima. Altri dovranno confessare di aver infranto senza sussulti e senza attenzione, senza rispetto e finezza, l'amore di una persona che si era legata a loro. Certo è che i sentimenti sono come fiori, così lievi che possono essere talora calpestati e umiliati nella polvere, forse senza un pentimento o un fremito. La copertina vera e propria però è un articolo di Raffaele Liucci che presenta questo libro una nuova edizione critica, Il Memoriale di Aldo Moro 1978. L'edizione critica, basata sul dattilo scritto e le fotocopie del manoscritto, aiuta a ricostruire la terribile prigionia patita dallo statista, da Aldo Moro. Una bella recensione a un romanzo di Lars Gustafsson, Storie di gente felice, la fa Marta Morazzoni, Smarriti in mondi paralleli. Scritti all'apice della creatività, Storie di gente felice sono racconti, non un unico romanzo, ma una raccolta di racconti dominati dal caso, in cui ci si imbatte in luoghi e situazioni dove ci si sente esclusi e perduti. E visto che abbiamo parlato di poesia, di Catullo, spostandoci di oltre 2000 anni, il Nobel per la letteratura assegnato questa settimana a Louise Gluck, americana, una poetessa, e Paolo Febraro ce la racconta un po', visto che non era molto conosciuta in Italia, ancora pochi i suoi libri tradotti, le sue raccolte di poesie tradotte in Italia, Versi senza abbandono, dove si sente ogni nota. E poi la recensione di Gilberto Corbellini a questo libro di Alberto Cairo, pubblicato da Raffaello Cortina, che si intitola Come i grafici mentono, capire meglio le informazioni visive, ma cosa c'è in quella torta? Torta naturalmente nel senso di grafico. Alberto Cairo affronta le molte menzogne che si possono nascondere nei grafici. Possono contenere dati discutibili o insufficienti, oppure suggerire schemi fuorvianti. E poi un'altra recensione, in questo caso di Maria Luisa Colledani, a questo libro che si intitola Da solo nelle terre selvagge, di Richard Pronek e Sam Keith, in compagnia di renne, montoni e caribù. Richard Pronek racconta l'odissea bianca in Alaska, immergendosi nella natura remota tra il fiume che tintinna e il grido del vento. Credo un sogno di molti, insomma, fare questi viaggi in una natura sfolgorante come quella dell'Alaska. E la lettura, il settimanale del Corriere della Sera, come sempre affida la copertina a un artista. Questa settimana è Ragnar Kjartansson, e le prime sette pagine sono tutte dedicate ad approfondimenti con gli occhi degli scrittori o dei saggisti a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. E poi vi segnalo anche, molto originale, questa recensione di Anna Chiara Sacchi a un libro di Nicoletta Dentico pubblicato da EMI, Ricchi e buoni, le trame oscure del filantrocapitalismo. Siamo proprio sicuri che la magnanimità dei coniugi Gates o dei coniugi Clinton o di Ted Turner e Mark Zuckerberg sia pura? Pare proprio di no, scrive Nicoletta Dentico, e questa è la recensione appunto che trovate sulla Lettura in edicola oggi e poi per tutta la settimana. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Andrea Roccabella in regia e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it.